nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Guardate, se non si conferma questa volta il titolo della mia trasmissione, che diedi già parecchio tempo fa, cioè, meglio di così, proprio a fagiolo cade, perché vi siete accorti che lei mica è passata. Qualcuno l'ha vista, è pervenuta? L'avete vista, chi l'ha visto? Io non l'ho vista. La primavera, se l'avete vista, segnalatelo all'800240024, perché siamo in piena estate. Ma lo sapete che in Val d'Aosta e in Trentino, anche in Piemonte, fanno praticamente piste da sci chiuse da tempo, un danno incredibile. Secondo, è arrivata veramente l'estate, ormai sembra l'estate compiuta. Io devo dire, a me non dispiace. Però siccome molto caldo non piace, poi se la prendono con me. Insomma, quindi ci conferma veramente questa volta, al di là di tutte le metafore che a volte cerco, di tutti i concetti reconditi per confermare il titolo della mia trasmissione, questa volta ce l'ho proprio servito su un piatto d'argento. Cioè, l'estate, quindi la primavera non si è vista, non ci sono più davvero le mezze stagioni. E anche se poi ci sono delle cose invece che purtroppo ci confermano che restano le mezze stagioni, cioè che le cose vanno sempre così. Vi ricordo ogni volta degli omicidi, che ci sono ogni settimana almeno due o tre donne da parte di mariti, ex mariti, fidanzati, fidanzati. Questa volta addirittura più precoci, un ragazzo di 17 anni vicino a Reggio Calabria che ha lapidato praticamente la fidanzatina di 13, ha sfondato le orbite, ha divelto i padiglioni auricolari, gravissimi danni cerebrali. Insomma, come dire, piccoli maschi padroni crescono, diciamo, abbiamo un bel vivaio, quindi anche se dovessero estinguersi quelli che hanno fatto e fanno queste cose da adulti, e poi ci sono anche i più giovani, insomma, che si preparano bene. E però sulla questione del, intanto vi ricordo sempre che il nostro appuntamento è legato tra me e voi al commentare insieme i fatti della settimana, le notizie della settimana, col numero verde sempre disponibile, verde quindi gratuito, 800 24 00 24. Tra poco ci sarà un ritorno graditissimo, trionfale, perché voglio che ci confermi appunto se proprio ho ragione col mio titolo, non ci sono più le mezze stagioni, la primavera non arriverà. Però intanto volevo dare anche uno sguardo velocissimo alla pagina Facebook dedicata a Non ci sono più le mezze stagioni, mi raccomando, aderite numerosi, e vorrei leggere alcuni commenti degli aderenti, degli internauti, dei fan, come possiamo chiamarli. Per esempio Stefano Landi da Pisa, che ricorda una notizia che poi dopo in qualche modo tratteremo, ma dice anche: sarebbe interessante discutere dello scontro Italia-Francia sul problema immigrazione, sul trattato di Schengen. In realtà ci si è messa di mezzo pure la Germania, avete sentito, ancora più rigida. Poi Margherita Timeus suggerisce come spunto il fatto che il nostro ministro della difesa, quindi immagino la Russa, usa gli aerei di Stato come taxi per lo stadio, perché sapete c'è questa polemica che la Russia avrebbe usato un volo di Stato per andare a vedere la partita dell'Inter in Germania. Poi ci sono anche vari commenti sulla proposta di legge che è stata presentata questa settimana da alcuni deputati, da alcuni parlamentari del PDL, per abolire la norma costituzionale transitoria che impedisce il ritorno del partito fascista. Adriano Abrami dice: è una norma transitoria, quindi sarebbe un atto di democrazia insomma abolirla. Stefano Pini dice: sembra quasi che stiano apparecchiando la tavola per l'elemora che si era dichiarato mussoliniano e pronto a candidarsi nel 2013. Insomma, vedremo. E poi Carmela Comparone: in questo momento non l'abolirebbe, non verrebbe abolita la norma, però non spiega perché. Carmela. Andrea Zanella scrive: in questo caso devo proprio sostenere un qualunquismo che non amo, ma non ci sarebbero cose più importanti da portare avanti al posto di questa sciocchezza. Mentre Michele Tuminello dice: in realtà non è una sciocchezza, attenzione, anche il fascismo sembrava una sciocchezza al momento, quindi diamo la giusta importanza alle cose. Monica Mazzoli: ma come si può abolire la legge sull'apologia del fascismo? Una dittatura è sempre possibile. Qualcuno commenta anche la barzelletta della mela, so se l'avete sentita, del presidente del Consiglio Berlusconi, e dicono che più che ridere fa piangere, ma poi magari molti avranno riso. E Andrea Cogo ricorda invece il caso Parmalat, dicendo che appunto il processo va avanti, ma potrebbe fermarsi, andare in prescrizione, quindi tutti i migliaia di poveri cittadini truffati potrebbero molto probabilmente trovarsi le tasche vuote. Questo per ricordare appunto la pagina Facebook con gli ascoltatori che scrivono, dovete cercare Roberta Giordano, non ci sono più le mezze stagioni. Però, a proposito, non ci sono più le mezze stagioni. Carissimo colonnello Mario Giuliaccio, mio grande amico, ci siamo incontrati tante volte nelle mie trasmissioni. Colonnello, ho saputo che adesso lavorerai per la 7. Ciao Roberto. La tua carriera infinitamente lungiva, diciamo. Ritorni quando? Oggi e domani, no? Sulla 7? Sì, già sono andato in onda questa mattina alle 7:30, alle 9:40. Ti ho perduto. E così sarà tutti i sabato e le domeniche per 3 mesi consecutivi, quindi... sono, diciamo così, accompagno i gitanti del sabato e della domenica, no? Con informazioni, diciamo, più dettagliate sul tempo. Senti, cioè, Mario, quindi tutti a seguire naturalmente il colonnello Giuliacci, così se dà delle indicazioni sbagliate potete prendervela con lui. Siccome tra pochissimo saluterò il mio opinionista estemporaneo che è lì in attesa, gli do ancora un po' di tempo perché so che doveva finire di preparare il pesce, penso che l'avrà anche digerito, però colonnello, quindi ho ragione. Non ci sono più le mezze stagioni, siamo in estate, piena. Andremo avanti così fino a settembre? Dici di sì. Beh, no, non andremo avanti così come a settembre, però è certo che un periodo lungo così, ormai è da 20 giorni che il tempo è splendido, bello, però sì. Il caldo lo stiamo avvertendo, l'abbiamo avvertito sabato, domenica passato, adesso in una fase più violenta, più intensa, lo stiamo avvertendo da 2 giorni. Il fatto che alcune località oggi, in questo momento, ci siano già 31 gradi a Novara, 31 gradi a Padova, 31 gradi a Milano Malpensa, 30 gradi a Milano, bella dice lunga, questa non è un'ondata di caldo che resterà anonima. Lascerà il segno, secondo me è un record. Un sì, record sì, storico. Ma il segno fino a settembre il segno? No, perché qui siamo... Qui, Mario, sono già... La prossima settimana, mi dispiace deluderti, la prossima settimana le temperature ritorneranno in giù, magari sul valore normale. Abbiamo guadagnato più di 10 gradi come anomalia, no? Verso l'alto. La prossima settimana, alla fine della prossima settimana, ne avremo persi altrettanto e sai cosa diremo? Probabilmente sabato, domenica prossima diremo: oddio, che freddino che fa. No, ti prego, ho già messo via tutto, io ormai ho il bikini fuori, anche Pietro La Corte in bikini alla parte tecnica. Gradi non è freddo, sì, ma confronto ai 30 di oggi è come se fosse un po' freddo, no? Che tristezza però. Vabbè, insomma, quindi temporaneamente non ci sono più le mezze stagioni, poi torna la primavera, questo volevi dirci, insomma, caro colonnello Giuliacci. La primavera con i suoi umori mutevoli, eccetera, no? Quindi, e non caldo, solo arriverà il freddo, fare in tempo ancora a rifare caldo e rifare freddo. Dai. Va bene, insomma, la vita è dinamica. Grazie colonnello Giuliacci, buon ritorno. Grazie Roberto, un saluto agli ascoltatori da Mario Giuliacci. E così abbiamo avuto anche il nostro colonnello, insomma, ci ha confermato che in realtà poi... vanno e vengono le stagioni, tornano, poi una ci ripensa, eccetera eccetera. Però è tempo adesso, scusatemi, forse avrà finito appunto di pranzare il mio opinionista estemporaneo di oggi, che è, signore e signori, Giorgio Mulet. Ma buongiorno. Buongiorno caro Giorgio. Buongiorno a voi, grazie. Hai mangiato il pesce, il pasta con le sarde? Com'è no, che pasta con le sarde? No. Pesce crudo, fatto come si deve. No, bellissimo, no. Il pesce crudo. No, una ricciola sfilettata che cantava, dei gamberi, gamberoni crudi che erano una meraviglia. Cantava, tanto era contenta. Del caso Giorgio. Cantava. Senti, siccome io il pesce crudo di solito lo mangio... Il giapponese, anche se adesso diciamo, vabbè, scateniamo pregiudizio. Insomma, tu come lo fai? Come ti fidi? Perché alcuni ci sono i parassiti nel pesce crudo, a me piace così tanto. Tutto è la carne cruda, pesce crudo, tutto sono una cavernicola, sì. Pesce crudo perché siccome mi trovo a Mazara del Vallo, allora direi che qui se c'è una cosa che è garantita è il pesce, quindi parassito o non parassito, qui c'è un pesce straordinario. Non te lo sei pescato tu però, Giorgio, non è che sei andato stamattina? No, no, purtroppo no, perché venendo in aereo veniva un po' complicato portare dietro fucili, pinne, eccetera. E pinne, quindi no, l'ho preso stamattina, ma straordinario, devo dire, del pesce straordinario. Giorgio Mulet, però mica tu dirigi Panorama lì da Mazara del Vallo, sarebbe anche abbastanza comodo e simpatico, nonché a meno. Magari, adorerei, purtroppo no, sono venuto ieri e domani pomeriggio torniamo a Milano. Sei andato dalla mamma? Dalla mamma. Giorgio Mulet, appunto, direttore di Panorama, stavo guardando la copertina che mi ha piuttosto sorpresa. La volta scorsa guardavo le due copertine, Panorama e Espresso, erano sullo stesso argomento, diciamo con una lettura comprensibilmente un po' diversa, no? Invece questa volta, devo dire, rimasta sorpresa da tutte e due le copertine, perché Panorama... cioè un faccione al centro di una, di una specie di Lucifero Mefistofele, insomma, con le cornette, la bocca, gli occhi un po' diabolici. E il titolo è, della copertina, Il re Sola, invece che il sole, la mega truffa di Roma, la mega truffa che, sapete, qualcuno di voi avrà sentito, ha colpito parecchi VIP, ha fatto risonanza per questo, però non avrei mai pensato che avresti dedicato la copertina a Re Sola, mentre l'Espresso, anche questo sorprendentemente, ha un'inchiesta che con tutti magari fatti sono successi questa settimana, uno si aspettava su un'altra cosa, invece a tutta coca, ragazzi, camionisti, politici, preti, rapporto sui nuovi consumatori appunto della coca. Ma parliamo di te, questo Re Sola ti ha colpito in modo particolare, non è che ci sei in mezzo anche tu, Giorgio, ti ha fregato pure a te, no? No, per fortuna no, io sono in mezzo a tante altre cose, Re Sola per ora me lo sono risparmiato. mi ha colpito perché devo dire che è talmente elevata diciamo la soglia delle persone che insomma non sono degli sprovveduti, sono persone che appunto dicevi tu sono dei VIP, sono persone che sono al centro anche dell'attenzione mediatica, molti di questi, quindi uno si aspetterebbe che di solito diciamo che abboccano a questi ami più o meno delle persone che non hanno cognizione, invece in questo caso colpisce perché tra le mille e più persone finite in questa rete vi sono delle persone che erano attrezzate per magari farsi venire qualche scrupolo prima di aderire a investimenti che garantivano il 15, il 20%. Che bisogna sempre un po' insospettirsi, no? Di fronte a queste cose. Allora diciamo che la rete così ampia e anche le cifre, perché lì insomma ballano già adesso oltre 200 milioni di euro, in realtà potrebbe essere più larga la truffa, e poi stanno continuando a uscire notizie che in realtà esportano questa ragnatela anche all'estero con affari tutti da chiarire. C'è di mezzo anche una buona parte di presunta evasione fiscale, insomma secondo me questa storia continuerà a regalarci sorprese e devo dire che mi appassiona, ci ha appassionato proprio per il reticolo e per le connivenze, chiamiamole così, che c'erano al di dentro. E poi devo dire Roma, la Roma Caciarona si presta, poi appunto il Re Sola, c'è uno straordinario, devo dire, cameo di Gigi Proietti che insomma nella Roma della mandracata, della febbre da cavallo, insomma riflette, e lo stesso Paolo Guzzanti, perché è stato truffato lui, truffata la figlia Sabina, truffata la figlia Caterina, insomma, un danno lui familiare generale. Senti Giorgio, ti volevo chiedere, a parte quindi il Re Sola che ha colpito duramente, il Madoff italiano l'avete chiamato, ci sono però tante altre notizie che vorrei sottoporti, anche se devo dire sono stata subissata praticamente dall'eloquio senza fine del Presidente del Consiglio Berlusconi oggi al convegno del PDL, avevamo la diretta accesa, ha toccato qualsiasi argomento, quindi qui ce ne sarebbe, però ti volevo chiedere, quindi vogliamo spostarci su quello, al convegno PDL, oppure sulla tragedia dei migranti nel canale di Sicilia, sui precari che sono in piazza, sulla Francia e Germania che ostacolano un po' le misure che l'Italia sta prendendo per l'emergenza immigrazione, l'udienza lampo del 6 aprile sul caso Ruby, processo Ruby. Scusa, ti vuoi soffermare? Ma guarda, fai di me ciò che vuoi, considerato che la tua trasmissione finisce alle 15, quindi se vuoi io sto volentieri fino a stanotte, però vedi tu, stanotte, caro, alle 15, siamo qui, scegli tu, io mi faccio infilzare come credi. Va bene, caro, come qui un tonno, 800 24 00 24. Poi ritorni, allora chiediamo anche agli ascoltatori, qual è la vostra notizia della settimana? Io poi vorrei chiedere, lasciandolo su questa frase, caro Giorgio, prima di sentire che ci sono gli aggiornamenti per la viabilità, come mi conferma Pietro Lacorte, dell'Utri, anzi diciamo praticamente Francesco Merlo, no? Riferendosi alla barzelletta sulla mela, tu l'avrai sentita, vero Giorgio? Sì, no, l'ho sentita, ma peraltro scusami, che non possiamo ripetere quella è una barzelletta che non è così come l'ha raccontata lui. Cioè, allora, la barzelletta non è neanche capace di raccontarle come sono le barzellette. Secondo me il presidente, io quella barzelletta io l'ho sentita raccontata anche da lui, diciamo nella sua interezza, ed è diversa. Siccome secondo me si è reso conto che il pubblico e la platea non era, diciamo, esattamente, era un po' freddino all'inizio, un po'... No, si è fregato, gli è uscita malissimo, ma la barzelletta assicuro fa anche ridere. Senti Giorgio, scusa. Lì, obiettivamente la birra dello champagne non si capisce come l'ha raccontata. Senti, quindi, però Francesco Merlo su Repubblica, insomma, diciamo con la sua arguzia, ecco, si è detto, ma dobbiamo più criticare il presidente del Consiglio Berlusconi, ormai abituati alle sue barzellette, o chi plaude così, dobbiamo capire, dice invece se sono semplicemente simpatizzanti, oppure se sudditi o che altro per compiacerlo, oppure se anche loro sono le critica più chi plaude. E ricorda una frase di Dell'Utri nel pezzo che ha fatto questa settimana su Repubblica, il quale dice Dell'Utri: due cose non deve fare un uomo, innamorarsi e ubriacarsi, e Silvio si è innamorato e si è ubriacato di se stesso. Giorgio, quindi che dire di quella frase? È vero che si è innamorato di se stesso, ubriacato di se stesso Berlusconi, come avrebbe detto Dell'Utri, secondo Francesco Merlo? Dell'Utri in realtà il giorno successivo ha smentito e mandato una lettera a Repubblica, ma questo diciamo non toglie in realtà la bellezza di quella frase, che comunque detta o non detta è verosimile, quindi vale la pena di essere commentata, con una premessa: Francesco Merlo, che è straordinario ed è davvero, come dicevi, di una rara arguzia, io lo preferisco quando lo trovo più sul campo ad occuparsi di fatti anche di sociali, di società. Ricordo un suo straordinario pezzo recentemente da Vetrana, lo preferisco un po' meno quando si erge a giudicare le coscienze altrui. Io voglio dire solo questo: secondo me in questo paese, soprattutto in questo momento, si è molto persa non solo la propensione all'ironia, ma anche, vorrei dire, l'ironia alle morte in questo paese. Cioè si tende a prendere oramai tutto talmente sul serio, si prende oramai a scandagliare, a vivisezionare ogni comportamento e a fare di ogni comportamento motivo anche di pagelle politiche e sociali. Io, come dire, vorrei rivendicare un po' il diritto anche a sorridere, e a sorridere anche nei momenti laddove c'è, per carità, l'occasione di sorridere, ma non per questo, come dire, essere giudicati. Detto questo, se la domanda è relativa al Presidente del Consiglio, come dire, che si sia innamorato mi sembra che sia non solo normale, ma anche, come dire, ben venga che uno si innamori. Però anche lì andare a giudicare quanto si innamora, se si innamora troppo, se si innamora poco, obiettivamente dovremmo più guardare ognuno di noi stessi prima di cominciare a giudicare, secondo me, gli altri. Poi mi guarderò allo specchio. Senti, volevo sentire Gina dalla provincia di Imperia, il numero verde per sentire qual è la sua notizia. 800 24 00 24. O Gina. Buongiorno signora Roberta. No, Roberta, già un mese fa ho telefonato che c'era il signor Bauro. Io volevo dire questo: ho visto ieri, quando l'altro ieri Berlusconi ha raccontato la barzelletta in occasione delle lauree delle ragazze così brave, no? Così. E alla sua barzelletta non c'è stato l'applauso che di solito ci fanno i suoi, non direi una parola brutta, ruffiani. E ho visto gli occhioni della Giorgia Meloni? La ministra Meloni è sbalordita, disagio, cioè, ho letto in quegli occhi il mio disagio. Negli occhi della Giorgia Meloni? Sì. Gina, sì. Sì. Per cui dico, sarà il momento che questa gioventù, che questo popolo si sveglia da questo che sembra una droga di berlusconismo. Io già l'altra volta l'avevo detto che i giovani sono un po', come dire, sembra che la vita sia fatta solo di donne, di leggerezza, di canzoni, di barzellette, tutte queste cose, che purtroppo la vita invece ha anche altri aspetti, questa leggerezza, a far apparire che la vita è così leggera come è il berlusconismo in generale. Gina, perché... dimmi una cosa, in questo momento, tra poco ci sono le amministrative, non so se in provincia di Imperia esattamente quel sia il tuo paese, tu chi voteresti a livello nazionale? Guardi signora Roberta, io abito in un paese della provincia di Imperia, finora... Che si chiama, diciamo così. Villa Faraldi, che sarebbe la piccola Atene della Liguria. Niente, poco di meno. Dal festival per parecchi anni così. Queste ultime due legislature c'è stato un sindaco leghista, che adesso poi non può più candidarsi, che è stato positivo come amministrazione. Io sono una socialista nata, una socialista di Gesù, perché io sono cattolica, praticante, però ho sempre avuto una famiglia socialista, e per aiutare chi ha bisogno sono infermiera in pensione. Quindi chi voteresti a livello nazionale? Nazionale, dimmi, io, uno, una. cioè non darebbe un po' di fiducia a Casini, perché perlomeno quest'ultimamente ha preso una linea e sempre dice sempre le stesse cose, per cui non ha cambiato tanti pareri. Però non ho ancora una persona, un modello di riferimento a cui affidarti. Gina, ti ringrazio, e intanto, proprio perché ci hai ricordato, ci hai buttato un po' nella gola della politica, vorrei, ogni tanto ci tento a fare questo collegamento col Parlamento, perché sempre Napolitano ritorna, no? Sì, è stata agitata anche la settimana scorsa, ma pure questa sul processo breve e altre cose. Vorrei collegarmi per sentire se le acque, diciamo, si sono calmate. Così vediamo. Pietro, puoi alzare il telefono, per favore? No, chiudi, grazie. Chiudi, vedo che la situazione è ancora un po' agitata. E allora direi, facciamo un altro invece tipo di collegamento, colleghiamoci con Marte, via. Riflessioni da Marte. Questa settimana, miei cari umani, col mio telescopio puntato sul vostro strampalato pianeta, bisogna dire, ho potuto scorgere, piuttosto evidente a dirla tutta, qualcosa di cui vi eravate completamente dimenticati, dite la verità. Qualcosa che vi era sembrato uno spauracchio per alcuni anni, non si faceva altro che parlare di quello, era diventato una specie di tormentone universale, e poi dovete aver pensato: qualcuno ci avrà messo una bella toppa e la questione è chiusa definitivamente in tutti i sensi. E invece no. A volte ritornano. Ed eccolo là, compiaciuto della sua vuotezza. Del resto lo sono anche a volte gli esseri umani. Eccolo, dicevo lì, di nuovo, il buco dell'ozono. Pensate che si fosse magicamente chiuso. E invece a marzo, buco da record. Secondo infatti gli allarmanti rilevamenti dell'Agenzia Spaziale Europea, lo strato che vi protegge dai raggi ultravioletti non è mai stato così sottile dal 1997. Qualcuno come al solito farà spallucce: ma sì, cosa sarà mai un buco? E invece, cari miei, fa danni, e danni evidenti, incide direttamente sulla salute umana con conseguenze a volte inaspettate. Prendete per esempio il caso del vicepresidente del CNR Roberto De Mattei, il quale dovrebbe essere uno scienziato a capo del più prestigioso istituto scientifico italiano, il CNR appunto, no? Il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ma attenzione, presumibilmente appunto proprio a causa del buco dell'ozono, sentite cosa ha detto a marzo, cioè proprio quando la sottigliezza del buco dell'ozono era effettivamente da record. La tragedia del Giappone, dice, beh, le catastrofi sono una voce terribile ma paterna della bontà di Dio. E poi, proprio questa settimana, a conferma evidentemente che la falla dell'ozono è tutt'altro che richiusa, il vicepresidente del CNR ha affermato che l'impero romano sarebbe caduto per colpa degli invertiti che infestavano Cartagine. La provvidenza, sostiene lo studioso, che evidentemente ha studiato, se no non si chiamerebbe studioso, la provvidenza, dice, si sarebbe infatti servita dei barbari per liberare l'impero romano dagli omosessuali. Via, la bella pulizia punitiva. Si sa, dice, che per quanti se siano pochi ad assumere atteggiamenti svergognati, sono molti poi a contagiarsi con le oscenità di quella minoranza, così ha detto. Qualcuno potrebbe pensare che l'emerito professore in questione sia un superstite dell'era glaciale, ma perché mai, allora ci potrebbe chiedere, dovrebbero averlo catapultato sin qui? Non era forse gradito ai mammut? Ma no, la causa è verosimilmente il famigerato buco, come nel caso probabilmente del presidente di una società di pallacanestro femminile di Serie A1, che dopo che gli ultras, una dozzina di energumeni della sua squadra, hanno dato della scimmia e della negra a una giocatrice nera della squadra avversaria e le hanno poi sputato addosso, lui ha commentato piccato: se è stata insultata e sputacchiata è stato certamente un grave episodio di inciviltà, ma altrettanto grave è che lei abbia reagito contro la dozzina di energumeni, insomma, scadendo al livello di chi l'ha offesa. Insomma, perché mai effettivamente non era stata ella, la giocatrice nera, impassibile a farsi sputacchiare ancora un po', a farsi coprire di altre gentilezze irripetibili da quegli omuncoli? Dunque, gli esempi sarebbero moltissimi, infiniti, ma insomma, per decenza e per amor di patria, o meglio amor di pianeta, il vostro, mi fermo qui, però l'avete capito, vero? Mai sottovalutare le conseguenze del buco dell'ozono. Come va? Come va? Altro poi succederà, cara terra mia, ti sta spaccando il cuore, tu lo sai, cara terra mia, che razza di futuro troverai? Ritorniamo con i piedi per terra, Giorgio Mulè. Giorgio, caro, volevo dirti, oggi Berlusconi, quindi ti dicevo, veramente incontenibile al convegno del PDL, ha detto: vinceremo le amministrative, riorganizzeremo il PDL sulla sentenza Mondadori, rapina a mano armata, adesso. E poi ha affermato: è stato scoperto, che già l'aveva detto comunque nei giorni scorsi, il patto tra Fini e i magistrati. Che pensi? A parte che ricordo il numero verde per gli ascoltatori, 800 24 00 24. Ma penso che in realtà le elezioni che si sono susseguite dopo il 2008 finora hanno dato ragione a Berlusconi. Adesso lo si ami o non lo si sopporti, come l'ascoltatrice di Gina prima dalla Liguria. Cioè è vero ed è incontrovertibile che alle europee, alle regionali, alle provinciali, in tutte le elezioni che ci sono susseguite, il Polo delle Libertà e Berlusconi hanno avuto delle affermazioni. E questo adesso, sì, ma il patto tra Fini e i magistrati, che lui si riesce a il patto tra Fini e i magistrati è, come dire, un vecchio pallino del Cavaliere che affonda ancora prima della rottura che c'è stata con il che fai mi cacci con Fini. Cioè Berlusconi è intimamente convinto che Fini, e di questo sostiene di averne plurime conferme da rapporti, da qualcosa che evidentemente gli viene soffiato all'orecchio, di un rapporto molto ravvicinato di Fini con magistrati, cosa che viene peraltro sottolineata dopo, se vi ricordate, quel fuori on di Fini con un procuratore, se non sbaglio, dell'Aquila, con il quale parlavano di Spatuzza, del pentito della mafia, prima ancora che esplodesse la bomba Spatuzza o mentre ancora era in svolgimento, e poi con sicuramente dei segnali molto vicini tra l'ANM, che è l'Associazione Nazionale dei Magistrati, e alcuni uomini di Fini, segnatamente l'onorevole Granata, che sicuramente raccolgono e rappresentano quantomeno quello che l'ANM porta avanti. Allora, tutto questo fa dire al Presidente del Consiglio che Fini è vicino, addirittura in combutta con i magistrati. Adesso, se sia vero o non sia vero, ovviamente io non lo so, so soltanto che sicuramente da parte di Fini non si può non notare un cambiamento di passo tra quello che fino a soltanto magari un anno e mezzo fa diceva, che aveva ripetuto per decenni, cioè della necessità di riformare in profondità la giustizia, e la cautela che lo spinge quasi a non muoversi rispetto invece a quella che a mio giudizio è una riforma che il Paese a questo punto ha bisogno per la serenità di tutti i cittadini, e soprattutto perché il servizio della giustizia sia di giustizia e non di ingiustizia. Ecco. Senti, secondo te può essere efficace la questione per riformare la giustizia per il bene di tutti il processo breve, o si rischia, come teme qualcuno, che vadano in prescrizione centinaia di processi per stupro, per mafia, anche quello di Viareggio, persino quello della Parmalat, che comunque andrà già adesso per i suoi termini purtroppo di scadenza già, che dici? Guarda, io penso che questo Paese, proprio perché oramai si divide tra chi è per o comunque sopporta Berlusconi e chi lo odia e lo vorrebbe tolto di mezzo, non farà mai un passo in avanti, proprio perché è oramai ingessato in questa dicotomia che è irrisolvibile. Il processo breve, come altri provvedimenti, certamente, e sarebbe, come dire, stupido non dirlo, è un provvedimento che alla fine è a favore nelle cause che coinvolgono il Presidente del Consiglio. Dico anche che a livello europeo, e quindi non su iniziativa del PDL e del governo, l'Italia è stata non bacchettata ma sonoramente presa a calci nel sedere per tempi lunghi e davvero insopportabili che la nostra giustizia ha nel tempo. 800 24 00 24, prima di concederci la prossima pausa con Giorgio De Luca, che riceve infinite telefonate, sta cercando di smistarle, per prendere quindi Claudio D'Ancona, sempre al numero verde 800 24 00 24. Qual è la tua notizia, Claudio? La mia notizia, buongiorno, intanto buongiorno a te, Claudio. Buongiorno a lei, buongiorno a Giorgio Mulè. La mia notizia è che Galateri si è dimesso, è il nuovo amministratore delegato delle generali. Questo potrebbe essere. Sì, il nuovo presidente Geronzi si è dimesso. Questa è stata una grossa svolta, no, nel capitalismo italiano. È stata una grossa svolta, da alcuni anche ventilata e appoggiata. Parlo di Santalmassi, ad esempio, una persona che voi dovete conoscere abbastanza bene. Sì, anche io non credo che sia in primo piano, insomma, in questa cosa qua, comunque. No, ma io mi occupo di io sono un consumatore, leggo i giornali e leggo con piacere il Post di Sant'Almazzi. Quello che volevo chiedere a Mulè, che è sicuramente uomo di di Mediaset. Sono due cose. La prima è cosa ne pensa di questo passaggio. Ricordo che era un uomo di Telecom, quindi diciamo potrebbe essere. E poi un pensiero su quello che gli può aver insegnato Indro Montanelli. Grazie. Ah, è più un'intervista, diciamo, a Giorgio. Però Giorgio, siccome c'è una pausa adesso che dobbiamo rispettare, poi vabbè, su Indro Montanelli so che tu hai lavorato appunto per lui, poi se vuoi essere sintetico, perché la notizia della settimana è questa appunto del cambiamento ai vertici delle assicurazioni generali. Volevo anche segnalarvi una novità discografica. Le Munecas, si chiama alias Maristel Polanco, Diana Gonzalez e Aris Espinosa, stanno incidendo in un album dove sarà contenuto un brano dal titolo Vamonos al Bunga Bunga. E si parla, dice Maristel Polanco, di cosa succede: una cena normale dove ci divertiamo, cantiamo con apicelle le persone che fanno il karaoke, e pare che i testi siano stati scritti con l'aiuto del presidente del Consiglio Berlusconi. Ti risulta, Giorgio Mulè? No, adesso non è che io passi la mia vita lì, no. Ma è una novità discografica. No, no, per carità. No, mi risulta perché l'ho sentito alla Zanzara, devo dire, cantare dalla stessa Polanco in persona un pezzo di questa canzone che, devo quindi dire, secondo esiste. Me avrà anche successo. Sì. Credo anch'io che avrà successo. Sì, senti, sì. Per rispondere all'ascoltatore di prima, Claudio, che poi ci saranno Antonio dalla provincia di Foggia, Maurizio da Torino. Ecco, delle dimissioni, questo passaggio da Geronzi a Galateri. È sicuramente un passaggio che qualcuno ha definito epocale, sicuramente segna uno spartiacque nella storia del capitalismo e dei rapporti della finanza italiana. Geronzi ha rappresentato per oltre 20 anni un pezzo importante dell'establishment di questo paese, sicuramente a questo punto i suoi punti di riferimento non dovevano essere così radicati e soprattutto in grado di sostenerlo come era stato fino adesso. Secondo me Geronzi paga molto sull'altare del carattere personale e del suo modo, un po', se volete, non esattamente, diciamo, in stile British, di rapportarsi con i manager che lo circondano, in questo caso con quelli di Generale, che hanno avuto gioco facile con azionisti che erano lì un po' sul piede di guerra, su tutti, per esempio Diego Della Valle e altri che lo hanno sostenuto, e quindi ha fatto il suo momento e quindi si è fatto da parte. Quanto a quello che mi ha insegnato Montanelli, no, banalmente, sono due parole. Sì. Montanelli mi ha insegnato ad avere la schiena dritta, non essere né un uomo di Mediaset né un uomo di Mondori, di essere Giorgio Mulè con tutti i suoi difetti e i pochissimi pregi che soltanto chi mi vuol bene può rilevare. Mi ha insegnato a non aver mai paura della notizia e soprattutto di difendere le proprie idee se vale la pena di essere difesa. Sempre il mio opinionista estemporaneo è Giorgio Mulè, direttore di Panorama. Il Re Sola è la copertina del numero adesso in edicola. Dunque, crollerà anche la Lega a causa della ragione per cui è crollato l'impero romano? Beh, insomma, la Lega ha fatto del celodurismo il suo motto, quindi sicuramente avrebbe... Ma guarda, ce lo possono avere anche gli omosessuali, esatto, non è che sempre a quello servono. Roberta, mi stavo correggendo, sì. Infatti stavo dicendo che può essere, ci ho pensato dopo, quindi può essere in realtà dell'uno o dell'altro. Ah, certo. Secondo me resiste, a occhio potrebbe resistere, a occhio ce la farà resistere a questa tornata. Sì. Molto bene, quindi allora diamo la parola a Manuel dalla provincia di Milano, 800 24 00 24. Manuel, a te. Sì, ciao Roberta, complimenti per la trasmissione. Grazie. Che veramente si parla sempre di tutto. Ma a me la notizia che sinceramente ha lasciato molto sconcertato è il fatto che Sgarbi conduca un programma sulla RAI articolato in 5 puntate, il compenso pattuito è di 1 milione di euro. Sì, l'ho ammesso, mi sembra, sono un po' arrabbiato il fatto che qualcuno facesse conti in tasca, però mi sembra che l'abbia ammesso, sì. Sì, sì, e sarà pagato naturalmente dai soldi, diciamo, delle persone che pagano il canone, no? Ecco, questa cosa qua sinceramente vedo una cosa veramente scandalosa, ma perché innanzitutto penso a quella polemica che era stata fatta dai giornali della destra contro Benigni, no? Quando aveva preso quei 90.000 euro, che tra l'altro poi Benigni l'ha devoluto in beneficenza, sì, così aveva detto. Sì, però appunto voglio dire, Benigni è un grande artista, invece Sgarbi, sinceramente Roberto, sai perché io sono molto amareggiato? Sono molto amareggiato perché Sgarbi, mi ricordo quello che ha fatto, cioè lui ha passato un'intera legislatura quando era deputato a insultare i suoi avversari politici facendogli scudo dell'immunità parlamentare. Poi guarda, una cosa che mi amareggia tantissimo, no? Che c'è stato un grande magistrato italiano, Caselli, che ha lottato contro le Brigate Rosse, ha lottato contro la mafia, Sgarbi lo ha diffamato, è stato condannato perché ha detto che Caselli era il mandante dell'omicidio di un pugliese. Sgarbi queste cose le ha dette in diretta, non ha mai chiesto scusa. Io, ecco, questa persona qua non solo non dovrebbe prendere 1 milione di euro, io penso che Sgarbi vi dovrebbe tassare in eterno, veramente. Grazie Manuel, mi fai in mente proprio di televisione, poi anche quello che è successo con la trasmissione di 150 anni dedicata all'Italia su Rai 1 mercoledì scorso, l'ultima puntata, sembra che non sia stato un grande successo, però Vespa, che era in compagnia di Baudo a condurre questa trasmissione, e ha improvvisamente chiuso senza neanche i saluti, le cose di rito eccetera, perché ha visto il faccione scorrere di Santoro, appunto, sul e quindi l'ho visto poi questo filmato, perché l'ho visto poi dopo, chiuso, Baudo voleva parlare, lui ha visto questa cosa ed è sbiancato, poi si è annerito, invece si è inverdito, e direi insomma una cosa un po' esagerata. Però Giorgio, ti lascio poi dopo il commento, se vuoi, su questa cosa che diceva Manuel, perché adesso abbiamo un appuntamento imperdibile con il nostro creatore di Spinoza.it, insieme ad Alessandro Bonino, suo complice e compagno, il blog satirico più cliccato della rete, sempre Stefano Andreoli. Caro Stefano, una fotografia, un'istantanea di questa settimana. Buongiorno Stefano. Roberta, chiaramente anch'io ritengo scandaloso che Sgarbi venga pagato da chi paga il canone, però la cosa non mi riguarda, quindi chiaramente... Ah, bravo, ti sei autodenunciato, molto bene, sapete dove andare. Chiaramente io vivo sotto un ponte da svariato tempo, no? Prima, quando hai fatto che non crolli, la missiva da Marte per trovare una canzone col buco nell'ozono, hai pescato Albano e Romina, cara terra mia. Sì, sono andata parecchio indietro, proprio l'ho ricercato tantissimo. Da questo pezzo, sì. Ti prego, dissociatene. L'ho messo io e quindi sì, diciamo che non posso, prendo la responsabilità delle mie azioni, delle mie scelte. Va bene, va bene. Andiamo alla settimana. La russa su un volo di Stato per vedere la partita di martedì a San Siro, non in Germania come hai detto tu, era San Siro, Inter, Schalke. Hai ragione, 4. Hai ragione, chiedo venia. Inter Schalke 04. Volavo col pensiero, sì. Sono l'unico a pensare che è peggio quando li usa i voli di Stato per fare il ministro, perché secondo me è anche lì, c'è anche lì una notevole problematica. Hanno detto dal ministero che la Russia non poteva prendere un normale volo di linea per questioni di sicurezza. Sì, così ha detto. Ma secondo me basta mettere una buona museruola e è tutto a posto, non credo ci possa nuocere più di tanto. Ovviamente la Russia è tornato più nero che mai da quella partita. Abbronzato, sì. Come non in questo. Veniamo. Roma città aperta, ecco una notizia vera quanto inquietante. Un bar a Roma espone un cartello: vietato l'ingresso agli immigrati. Non è la prima volta a Roma, come in altre esatto, città. Esatto, sì. Vietato l'ingresso agli immigrati, c'è il rischio che chiedano lo scontrino, esatto. Quindi chiaramente costituiscono un grave rischio. Alemanno, non è stato con le mani in mano, potrebbe ritirare la licenza a questo esercente e farlo assessore, chiaramente, perché queste forze non queste forze non devono essere sprecate in questi ruoli così defilati. Diciamo, questa è una scemenza che ho detto prima, forse scoperta la prima immagine di Gesù è venuto da Dio. Ecco, questa è un'idea, si pare che abbiano trovato un dipinto, un'iscrizione con le fattezze di Gesù. Veniamo a uno dei casi più caldi della settimana, e con questo direi di chiudere. Bravo, sì. Processo a Ruby, prima udienza, il tutto è durato pochi minuti e Berlusconi non è nemmeno venuto. Va bene, grazie, chiudere subito, grazie Stefano Androli, molto bene, facciamo finta che non ci sia mai stato, e invece adesso andiamo con molto piacere, anche se molto velocemente, a incontrare la nostra Valeria della Valle, linguista della Sapienza di Roma, alla quale sottopongo come parola della settimana. Cara Valeria, direi a questo punto, con tutto quello che è successo e succede, migranti, immigrati, si ripete più spesso migranti ultimamente che non immigrati, cosa ne pensi tu? Sì, ti sei tra l'altro al festival, delle parole... È la parola nuova, l'aveva già registrata Tommaseo nel suo famoso dizionario, però è vero che migrante ora si usa di più. Quando è cominciato il fenomeno, parlo ancora del 1991 con l'esodo dall'Albania, le parole usate erano molte: profughi, rifugiati, boat people, fuggitivi, extracomunitari, eccetera eccetera, e oggi c'è un fenomeno strano: l'uso della parola sembra dipendere dallo schieramento politico. Così c'è chi li chiama clandestini prima ancora di sapere che se lo sono, c'è chi li chiama disperati, c'è chi li chiama richiedenti asili e c'è appunto chi li chiama migranti. Ecco, preferendo questa parola in un certo senso più neutra, che non esprime condanna e che forse evoca alla lontana il migrare delle rondini, e proprio per questo non evoca invece paure e terrori che ci vengono suggeriti per quelli che continuano a essere chiamati esodi biblici. Valeria, tra l'altro ti lascio gli appoggi bons Abruzzi, dove c'è il Festival delle Parole di cui sei presidente, tra l'altro, sarà immersa nelle parole. Ci stiamo occupando e annegando piacevolmente in mezzo alle parole, e dalle parole ti saluto. Buona continuazione. Grazie Valeria da Poggi Bonsi. E invece abbiamo quei 33 secondi per chiudere con Giorgio Mulè, direttore di Panorama. Giorgio, senti, oggi fra le varie cose Berlusconi ha detto al convegno del PDL ci sarà un giudice a Berlino, diciamo, citando Brecht in modo colto, ma io non vorrei che la Merkel si fosse preoccupata e pensasse, no? Già noi cerchiamo di respingere i migranti, ma viene anche Berlusconi a Berlino, no? Questo no. Che dici? È che la barzelletta di prima, quella di Rubbi, rischia di essere come quella della birra, secondo me non l'hanno capita in molti. No, questa della Merkel invece sì, è un'altra battuta, però come dire, io se la signora Merkel venisse per 6 mesi in Italia magari cambierebbe idea, ecco. Dici su cosa? Sulla giustizia italiana e sulla terzietà dei giudici italiani. Chiudiamo così, Giorgio? Ma sì, ma voglio dire, abbiamo fatto un'ora di anti-berlusconismo militante, va bene così. Di qualcosa di berlusconiano, Giorgio. No, ti prego. Parliamo di cosa mangiare stasera, c'è altro che abbiamo, dal buco dell'ozono, l'ascoltatore prima ti lamentava, siamo fatti 2 maroni così per un'ora, grazie a te che per fortuna l'hai tenuta sul leggero e sullo spiritoso, sennò che noia, sta vita diventa una noia terrificante. Vero Giorgio, allora siamo d'accordo. Grazie Giorgio Mulè. Che ti mangi stasera? Ah, stasera gamberoni in arrosto. Vabbè, qua siamo sul lusso. Grazie. Ciao Giorgio Mulè, buona continuazione. Grazie, buona domenica a tutti. Ciao, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.